Brussellando, viaggio tra i libri, le musiche, le poesie, l'arte, l'agenda culturale italiana ed europea, presentata da Radio Alma e condotta in studio da Mary D, con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent, regia di Danny M. Cari amiche, cari amici, Radio Alma, Brussellando, bentrovate, bentrovati, bentornati, bentornate da queste lunghe, speriamo, per molti di voi, vacanze pasquali. Questa sera siamo in versione ridotta, perché il mio amato George non c'è. E mi dispiace tanto, perché stasera tra l'altro avevo in mente così tante belle cosette da far leggere al nostro George che vabbè, faremo in modo di riprodurre un'altra puntata appositamente per lui. Però abbiamo nuovamente con noi Fiordaliso. Ciao, buonasera. Dani M in regia. Buonasera a tutti. E Paolo e Stefano, bentrovati dopo una lunga assenza, ragazzi. Buonasera. Lunga buonasera. Assenza. Ragazzi, senza... L'avete detto in coro, che bello. Siamo carini. Sono coordinati ormai, cioè, tutto sommato, voglio dire. Bene, bene, allora, finalmente un po' di primavera anche a Bruxelles. L'aspettavamo con ansia. Ed è arrivata. Finalmente un po' di primavera è arrivata. Si sta fuori nei locali. Un po' di terrasse come tanto ci piace fare in quel di Bruxelles. Questa sera abbiamo una puntata un po' diversa dal solito. Semplicemente perché il tema probabilmente non è uno dei temi abituali di Brussellando. È stato un tema su richiesta da più persone che ci ascoltano. E questa sera noi parleremo di oralità e poesia. Come voi sapete, molto spesso le due cose per alcuni possono coincidere, per altri invece l'oralità è ben diversa da quella che poi la produzione più propriamente letteraria. Cos'è poi che caratterizza, contraddistingue un linguaggio poetico da quella che è poi la mera conversazione quotidiana? Mera conversazione quotidiana che tutto sommato si sviluppa attraverso codici linguistici e semantici, ovviamente riferiti anche ai differenti contesti. Quando si parla con un diplomatico, oppure si conversa con un ambasciatore, o ancora con uno studente, o ancora con un poeta, sicuramente il nostro approccio, quanto tutto sommato relativo all'oralità, è differente. Noi non vogliamo affrontare questi campi semantici, ma invece questa sera parleremo con Mimmo Grasso, che avremo tra qualche minuto al telefono, di quella che è la differenza, semmai poi esista nella sua esperienza personale, una differenza tra oralità e poesia. Come dicevo prima, la poesia non è uno dei temi principali di Brussellando. Come tutti voi sapete, da Brussellando è nato la tela sonora che va in onda al venerdì, però essendo lo scopo di Brussellando quello di promuovere in qualche modo l'espressione italiana e di promuoverla all'estero, e ringrazio ancora tutti coloro che continuano a iscriversi al nostro podcast e quelli che continuano a visitare il nostro blog, che ha superato già credo le 500 visite da meno di qualche settimana. Forse Imola ci può dare qualche dato più preciso. Sì, ha superato i 500, sì, questo lo so. In meno di un paio di settimane, insomma, sì, da quando abbiamo introdotto la funzionalità sulle visite. Quindi vi ringraziamo della fiducia, cerchiamo, come vedete, di soddisfare quelle che sono anche le vostre particolari esigenze. Vedo già Dani M pronto in regia col numero di Mimmo, e magari potremmo, prima di passare la parola a Mimmo e di entrare poi direttamente nel tema della serata, fare un po' di agenda. Cominciare con un evento che ci ha suggerito, non ricordo mai se Paolo o Stefano, comunque il nostro gruppo di amici del jazz, un sorso di solidarietà, giornata di degustazione dei vini delle cantine Badia di Morrona e Poderi dei Bricchi Astigiani, in collaborazione con l'International Friendship for Development, che dal 1994 è impegnata per lo sviluppo sostenibile delle popolazioni rurali in Uganda. Tutto ciò avrà luogo lunedì 4 maggio, quindi è tra due settimane, tra le 15 e le 21 presso Teca Wine Bar a Clos du Parnasse a Rue du Trône 62, 1050 Bruxelles. In questa occasione la storica cantina di Badia di Morrona presenterà sul mercato belga i prodotti che saranno gemellati con i progetti ovviamente dell'International Friendship for Development. Una percentuale delle future vendite servirà infatti a finanziare i progetti di sviluppo nella regione del Soroti, nel nord-est dell'Uganda, fra cui l'ampliamento delle scuole elementari nelle zone rurali e la concessione di microcrediti agli agricoltori locali. Per quanti volessero saperne di più, si può contattare Marzia Brofferio Celeste, Pamela Ioti Perurasi, Anna Legrenzi. Per semplicità anche per i nostri ascoltatori, sì, abbiamo tre numeri di telefono, ma noi magari ne forniamo solo uno: 0473 817514. Comunque da domani troverete sul nostro blog tutte le informazioni per poter prenotare, quindi partecipare a questa a questo pomeriggio, a questo grande e lungo pomeriggio che grazie è davvero abbastanza interessante. Poi Liliano Golini il prossimo 11 maggio alle ore 19 presenterà eccezionalmente per la prima volta a Bruxelles delle marionette dei burattini e del burattinaio, rilettura fantastica del teatrino. Liliana scrive in un suo brevissimo intervento per presentare il suo libro: per la molteplicità delle notizie e delle immagini globalizzate, per la complessità degli avvenimenti, molti dei quali disumani, il teatrino delle marionette si allarga fino a sconfinare nella scena dove il limite è sempre più sfocato e dove ciò che risalta è la nostra incapacità di condurre e condursi proprio della marionetta. Non è un caso quindi che qui si narri in una fiabola tra fiaba e parabola la vecchia storia del teatrino delle marionette, dei burattini e del burattinaio, dove l'ironia si fa racconto, tragedia e gioco in una visione alterna e complementare, in una rappresentazione che racconta la storia umana medesima. Tutto questo lunedì 11 maggio alle ore 19 presso la Piola Libri, Piola Libri 6668 di Franklin Mille, Bruxelles. L'evento è organizzato dall'associazione Amici della Campania. Per quanti volessero partecipare, enjoycampania@gmail.com, posti limitati, prenotazione obbligatoria, ma ovviamente è gratuito, quindi possono partecipare tutti quelli che adorano le marionette toscane e non, visto che Liliana è di Firenze. Mimmo! Sì? Pronto, benvenuto! Sì, salve! Come stai? Benissimo, qui per quanto sia a Napoli piove un poco, ma è roba passeggera, purtroppo non riesco a vedere Capri. Ah, questo davvero è un peccato, insomma, poi non è da tutti avere il grande privilegio di poter ammirare i faraglioni da lontano. Certo, dove abito io è la zona saracena, nei campi Flegrei, oltre che greca e latina, e ho il privilegio di osservare il Vesuvio, Sorrento, Capri, Procida, Ischia, a volte anche Ventotene. Perfetto. E quindi io sul terrazzo e canto, cosa c'è di meglio? Assolutamente, insomma, poi raccontaci un po' di te. So che sei una persona estremamente poliedrica, che insomma riesce a fare tante cose e a conciliare tante attività. Prima di arrivare a quello che è il nostro tema e di ascoltare ciò che tu hai preparato per noi questa sera, magari dici un po' di te, raccontaci. Beh, sono un ragazzo di Calabria, sono nato vicino a Crotone, di tanti Pitagora, di copiavi compiti, lo scemo. Poi lui andava bene e andavo male, ma mi sono trasferito nei campi Flegrei, quindi nei domini di Trivio, e penso di stare in buona compagnia anche con Lucrezio e con Filodemo il Greco. Purtroppo non posso prescindere da queste radici storiche. Mi sono occupato di management per molti anni e di risorse umane, poi ho lasciato tutto per dedicarmi solo alla poesia, che era un interesse che coltivavo già da molti anni. Suono la tamburro, non la tamorra, e frequento moltissimo le paranze dell'area vesuviana, oltre che i cantori di lingua greca della Spromonte. Ho capito. Ho fatto qualche libro, ma per quel che significa. Che vuol dire qualche libro? Dai, qualche titolo. Ma, dunque, di poesia, ne ho pubblicati 8-9. L'ultimo, anche con buoni editori, l'ultimo si chiama Sebeto, è in lingua napoletana che presumo di aver riscoperto. E pubblicato in Swahili anche, in lingua araba, e poi ho pubblicato saggi sulle arti visive e sulla filosofia contemporanea, con un approccio cognitivista, cioè mi interessa molto la percezione, il fenomeno del rapporto tra chi guarda e l'oggetto osservato, o letto ovviamente. Ho capito. Questa sera noi vorremmo parlare di oralità e poesia. Secondo te esiste una differenza? Se si differenziano queste due modalità di espressione della parola, in che cosa si differenziano? Ma diciamo che la poesia, come la intendiamo adesso, cioè qualche cosa di scritto, è semplicemente lo sviluppo storico della voce, dell'oralità. I primi poeti, lo stesso Omero, ma anche prima, erano semplicemente dei tamburrari, dei rapsodi, e la poesia serviva per trasmettere delle esperienze, ad esempio come si costruisce una nave, quali materiali servono per fare uno scudo, in una certa situazione come mi devo comportare. Ecco perché lo poseduto Omero parlava. parla spesso di situazioni esemplari relativamente ad Achille, Ettore e altri, erano dei modelli di comportamento. E d'altra parte l'apprendimento avveniva solo attraverso la memoria. Quando è nata la scrittura, e quando Platone poi ha utilizzato la scrittura per scrivere in forma dialogica, tra l'altro, quindi con uno stile parlato, i suoi pensieri filosofici, è successo in patatracca, nel senso che la poesia ha cominciato a essere interiorizzata. La patatracca ovviamente è una parola molto forte, i poeti del tempo di Platone erano in effetti dei mimi, e sappiamo bene come Platone la pensava, siamo nel periodo dei sofisti. Platone d'altra parte presenta una grande questione: da un lato nel Fedro esalta l'oralità, mentre nella Repubblica, che è un testo pedagogico, tiene fuori i poeti dalla sua Repubblica. Ma è un po' come dire, ecco, se uno dovesse fare una Repubblica ideale oggi ci metterebbe Sanremo? Io penso che sono poche le persone che metterebbero Sanremo, ma il livello era quello, al periodo di Platone. Assolutamente. Poi con la scrittura c'è stato tutto il metodo di analisi. Allora faccio un esempio per essere chiaro, no? Chi scrive ha un modo di pensare, di percepire molto diverso da chi è portato all'oralità. Se io dovessi chiedere a una persona, dimmi chi era intruso tra questi quattro oggetti, martello, sega, albero, accetta, questa persona mi può rispondere. L'intruso è il martello, perché ovviamente non serve per tagliare l'albero. In questo caso mi ha fatto un ragionamento orale, cioè si è basato solo sull'esperienza, su ciò che serve. Se invece mi dice l'intruso è l'albero, perché non è un attrezzo, avrà fatto un ragionamento astratto, e quindi è un uomo che ha una mentalità scritturale, analitica. Ecco, questa è un po' la differenza. Certo, a leggere poesia, cioè la poesia letta, come la conosciamo noi oggi, ha una struttura interna e un modo di comunicare che è molto diverso da quello orale. Se io dovessi pensare, il proverbio ad esempio è un residuo di questa cultura orale, si dice che è la sapienza dei popoli, no? In un periodo storico preciso, qual è quello provenzale dei trovatori, l'oralità e la scrittura hanno vissuto delle nozze felicissime, perché era importante il momento dell'esecuzione più che il momento della scrittura. Difatti i trovatori mica scrivevano le loro poesie, ci sono arrivati attraverso dei manoscritti, spesso in contraddizione tra di loro. Ecco, l'importante è chi è il mio pubblico di riferimento. Un'altra questione per capire l'origine delle differenze tra l'oralità in poesia e la scrittura della poesia potrebbe essere Sant'Agostino, perché Sant'Agostino cominciò la lettura silenziosa e San Girolamo diceva: ma questo è fatto, non leggete alta voce. Da lui poi, immaginando lui che la vera voce di Dio fosse il silenzio, che cosa è successo? Che la musica è andata da una parte e la poesia se n'è andata da un'altra. Forse oggi si sta cercando, in certo qual modo, grazie anche agli strumenti informatici, di ricongiungere le due arti, perché poi in effetti sono gemelle, sono speculari. Non so se ho risposto in modo... Assolutamente, assolutamente. Io, per completare poi in realtà questa tua carrellata su quanto è accaduto storicamente, cosa cambia oggi quindi con internet? A che cosa è paragonabile questa nuova espressione che è nata già da qualche anno? Alla Biblioteca di Alessandria, che era il centro culturale del mondo. Chiunque in quel periodo voleva avere qualche informazione, doveva necessariamente armarsi di bastone e bisaccia e andare scaldo ad Alessandria, o nel periodo medievale andare presso le abbazie. Ecco, internet è una grande abbazia dove c'è tutto lo scibile umano. La velocità del dato, dell'informazione, però, che cosa comporta? Un'oralità di ritorno. Se uno pensa come i ragazzi si scambiano i messaggini con le sigle abbreviate, con il parlato quotidiano, se uno pensa ad esempio a Messenger o Facebook, beh, quella è oralità, nel senso che si scrive così come si parla. Assolutamente. Senza stare attenti come ai codici. Che sia in oralità, perché io sto parlando adesso con te, ma non sto sicuramente pensando, elaborando i pensieri in forma gerarchica, soggetto, predicato, complemento, paratassi, ipotassi, eccetera, eccetera. Poi li sto collegando insieme, un po' come se stessi scrivendo una micro e mini Bibbia. No, nella Genesi si dice: e Dio fece, e Dio disse. Io parlo con te utilizzando la con gli miei pensieri e seguendo assolutamente. Ed internet con la sua velocità in effetti sta recuperando gran parte dell'oralità, cioè di questo modo di comunicare parlato scritto, e gli sviluppi non si possono vedere secondo me. Questa era la mia prossima domanda: che cosa si prevede? La biblioteca d'Alessandria, sappiamo tutti insomma quale fu l'esito riguardo alla biblioteca, ma di internet e di queste nuove tecnologie che sembrano favorire da un lato la comunicazione, mentre per altri invece possono essere troppo presenti, se non addirittura assillanti, fino a sfoderare negli ambiti più personali e privati. Siamo dominati, se vogliamo, dalla comunicazione, la comunicazione è ovunque, e l'esempio più calzante, capisci, è questo cellulare multiuso, dove ormai anche le email le puoi leggere facilmente da un banalissimo cellulare, telefonino. Sì, io penso che davanti alla necessità dello sviluppo storico ci sia ben poco da fare, perché lo sviluppo storico e la tecnologia creano comunque dei bisogni e di conseguenza delle osservazioni. Il futuro di internet, beh, spero che non sia come quello della biblioteca d'Alessandria, che qualche integralista bruci server, eccetera eccetera, ovviamente. Io assolutamente utilissimo. Premetto, io mi ritengo un poeta tamburraro, nel senso che uso il tamburo con la pelle di capra, sto attento al piede metrico, quindi sono arcaico per quanto riguarda la strumentazione che utilizzo quando vado ai reading di poesia o quant'altro, ma questo non vuol dire che non sia molto interessato e apprezzi tantissimo internet. Poi dipende dall'uso che uno ne fa. Un coltello può servire per tagliare il pane, ma altrettanto può servire per uccidere. Non credo, per la verità, potete trovare delle analogie storiche di questo fenomeno. Ecco, la stampa, no? Ecco, assolutamente, certo. Prima la cultura era un bene di lusso. Avere un libro dovevi aver vinto il Superenalotto, come minimo. E con la stampa si è arrivata a una democratizzazione della cultura, e quindi dei comportamenti e delle informazioni. Quindi che uno vada in internet e scopra dei mondi e degli universi significa che acquisisce nuove informazioni e cambia i comportamenti. Certo, se ci vuole vedere solo siti porno, beh, è una scelta sua, ma internet è ricchissimo, io lo utilizzo spesso per le mie ricerche. C'è anche una citografia alla quale dover obbedire, ovviamente stare attenti alle informazioni che arrivano, ma se uno va in libreria, assolutamente, da un lato, e dall'altra parte da così la valle o qualche altra cosa un po' più seria, ecco. Allora, prima di procedere, perché sono davvero curiosa di ascoltare questa tua tammurriata. Due minuti. No, abbiamo ancora 6 minuti, quindi insomma abbiamo ancora qualche minuto. Ho ancora 2 domande. Uno riguarda Taranterra. Sì. È stato pubblicato, è uscito come previsto in febbraio, oppure ci sono stati dei ritardi? No, Taranterra è un po' una summa delle cose che ho detto adesso. L'ho concepita, in effetti è la danza della terra, riguarda il dionicismo e l'apollineo, le due polarità della mente umana, ed è una vera e propria danza. Difatti è stata rappresentata al Museo Nazionale sotto forma di danza dionisica sotto il toro farnese. Ma a un certo punto sembrava che la statua si muovesse, che il toro facesse e scendessero. E questo mi hanno aiutato moltissimo delle danzatrici della mia zona. E Tarantella appartiene a uno dei libri che ho fatto a tiratura limitata, che adoro tanto, che tu pubblichi con Mondadori o in Audi, comunque i libri di poesia vanno al mascello. Allora ho preferito scegliere di lavorare con degli artisti, poche edizioni, tiratura limitata, stampa a piombo. E quindi Tarantella per me è un tamburo, e è un testo che mi è piaciuto, mi sono anche divertito nello scriverlo. Assolutamente. Pare che sia piaciuto moltissimo, insomma, alle persone che sono venute, difatti la tiratura è andata quasi esaurita, che mi fa molto piacere per l'editore. Beh, complimenti, assolutamente. E invece magari brevemente qualcosa su Mundus? Ah sì, dunque Mundus è un'antologia di poeti internazionali e ha come sottotitolo Poesie per un'etica del rifiuto, cioè cominciare a dire no, con contributi di Franca Rame, Alex Zanotelli e il filosofo Giuseppe Tortora. Cioè ci siamo chiesti qui a Napoli, nota piazza di elezione del pattume in tutti i sensi, quale fosse il ruolo dei poeti, se avessimo qualche cosa da dire. Il successo di Mundus e l'adesione internazionale che ha avuto l'antologia ci ha fatto capire che Napoli è ancora vissuta con un certo alone di magico e di lato della nostra autostima. Tant'è vero che adesso stiamo cominciando a pensare al ruolo del poeta oggi, questo ruolo delegato sempre ai margini, ma per colpa del poeta, io credo, non per colpa dell'ascoltatore o del lettore. E qui c'era un'altra parentesi. Assolutamente, sì, poi a Bruxellando in realtà ne abbiamo parlato spesso, ma è davvero interessante poi avere anche la tua opinione. Allora, io volevo salutare Bianca Madeccia, che è stata la persona che ci ha fatto conoscere. Bianca è stata nostra ospite ad ottobre, io ovviamente la saluto e la ringrazio di cuore per aver dato la possibilità a Bruxellando di fare la tua conoscenza e ai nostri ascoltatori ed ascoltatrici di ascoltarti. Però prima di salutarci, allora, Rapsodia dei piedi da Sebeto. Che cosa significa Sebeto? Il piede medico. Ah, ok. Certo, questo, io mi esprimerò brevemente in lingua partenopea, ma non è importante che non ti comprenda, è importante seguire il ritmo. Beh, tradurrò io per loro, dai, che come te sono campana. Ecco una piccola, in effetti si scrive e si parla come si mangia. Mi accompagna in questa breve tamurriata, suena carnevale, una tamorrara piena di grazia, che tra l'altro ha una manina molto piccola, ma fa paura quando si tamurro. No, bene. Il verso sono i trimetri giambici. Siamo tutti orecchi. Sì. Ma senta, inquilinata in casa mia, sempre imbicciata, sfrandummai accungiata, vanno c'è cosuna. Mo scrivo con magna, pura ti puzzi fam, e muzzica lingua perché ti tenga fam, perché si è tu sangue, vuoi che campa ancora, e ancora tenga forza, e arrecuzza per terra, e prete sta ruina, salutami maceria. Tra oralità e scrittura, isolloraritura. Diamo scrive che viera, perché viera ma porta, una bambina sotto spattata, sotto a cena insalata, facimmo viceversa, ha già tenuto coraggio e sta l'irpintatoria, tagli in toppano piercola, questa lingua tagliata, a ti parole china, e i risone dell'ettere, casula si pronuncia, e mai si scrive a ranna, cullata caso scritta, ma son lettere muta, che mai pronuncia a raggio, perché lasciava che ne cusceva, sta lingua che ne cricca, sta lingua catenaccia, che sta lingua paduta, cade ne giù su piedi, un netra, ma capito, cattava come un purpo, cace vanno a tarampa, ma se vagnano l'ancio. E a ma ripetizione, a storia è la guaguiglia, a storia è sempre stessa, con pietra e lo lupo, a storia è sceneggiata, il sessio malamente. Secondo me da via, non ne avevo biglietto, non vi ha sentito San Carlo, voi ci stucchiate a Lucca, e mute mie Gesù, e gente che non dorme. Perché la vita è sogno, è a storia, è solo suono. Pronto? Assolutamente, siamo? Mimmo, e se la vita è solo un sonno, la nottata da passà. Esatto. Bene, allora io ringrazio te, ringrazio anche Suena e Madeccia. Ah, ok, e ringrazio entrambe. Sai che potrai riascoltarti, spero più tardi tra due giorni, sul nostro podcast. Ti invierò quindi quello che è il link di riferimento. Io ovviamente, sì, a nome di tutta la redazione culturale di Bruxellando, ti faccio veramente un grossissimo in bocca al lupo per tutto ciò che bolle in pentola. Restiamo ancora in contatto e qualora avessi ulteriori novità, notizie, insomma, o informazioni interessanti, informacene. Ti ringrazio molto. E comunque, viva Napoli, ponte la città più antica dell'Europa dopo Atene. Beh, come dicevi tu, la città più accidentale del mondo. Caro Mimmo, ti ringrazio e spero a prestissimo. Grazie. Buona serata. Ciao. Verso le parole, eppure ce le avevo qua un attimo fa, dovevo dire cose, cose che sai che ti do. perso le parole. Veniamo tra parentesi da musica dal vivo, anche se era tramite telefono. Sì, sì, sì. Allora, questa sera partiamo con subito, io direi, con la prima artista. Beh, certo, parlare di poesia e jazz sono due termini che vanno molto bene insieme, non solo perché molte canzoni sono effettivamente molto poetiche, ma anche perché alcuni musicisti sono dei veri e propri poeti e alcuni poeti sono ispirati dal jazz. C'è proprio un genere che è la poesia jazz in senso stretto, dagli anni 20, e quindi c'è uno stretto legame sicuramente fra questi due concetti. C'è uno scambio che vediamo subito nella prima artista, che di sicuro non è nota alle masse come una musicista jazz, ed è Joni Mitchell, che piuttosto è una grande icona della musica pop, tale da aver influenzato di fatto tutte le grandi artiste cantanti, le possiamo chiamare, degli ultimi 20-30 anni, da Madonna a tutte le altre che hanno fatto del ruolo femminile, della voce femminile, la propria identità. Sì, è anche vero che ha toccato tantissimi generi diversi, certamente è un'icona pop come dicevi tu, ma partendo dal folk e passando anche per il rock alternativo, come viene spesso definito, e anche c'è, cioè, questo legame col jazz, e lo sentiremo in questo pezzo sicuramente. Un episodio interessante del suo legame col jazz è proprio una sua collaborazione con Charles Mingus, di cui abbiamo parlato diverse volte, grandissimo contrabbassista, che la invitò a lavorare su una resa musicale di un lavoro di Thomas Stern Elliott, che poi però venne interrotto dalla morte del povero Mingus nel 79, e al che lei comunque finì le registrazioni e le fece uscire proprio un disco nel 79 che si chiama appunto Mingus. Sì, sempre di questo periodo è proprio il disco che faremo sentire, che si riferisce a una tournée che aveva fatto proprio alla fine degli anni 70, Shadows and Light, anche questo direi una pietra miliare della musica live, con dei musicisti straordinari che vanno da Pat Metheny a Jacopo Astorius a Lyle Mays, ci sono tutti, Michael Brecker veramente, e sentiremo in questo pezzo proprio Jacopo Astorius, che ha un attacco dei suoi straordinari al basso. È la prima volta tra l'altro che facciamo sentire Jacopo Astorius su queste onde radio, ed è un grande piacere. Partiamo con Joni Mitchell, Edith and the Kingpin, da Shadows and Light. Poesia, non solo la voce soprano di Joni Mitchell, ma anche il basso di Jacopo Astorius, la chitarra di Pat Metheny in questo pezzo, ma anche in altri del disco, veramente hanno dei suoni che si legano molto al concetto di poesia, direi. Grandissimo, grandissimo pezzo, grandissima artista. Il secondo brano ci viene da un ensemble, da un gruppo che ruota attorno a tre grandi musicisti. Quello che è più conosciuto, che conosco io meglio, è Roy Hargrove, però tu, Stefano, probabilmente conosci anche gli altri. Hargrove è un musicista, un trombettista giovane, cresciuto un po' sotto l'occhio di un musicista di cui parleremo subito dopo, che è Wynton Marsalis, che ha fatto cose molto R&B, cioè rhythm and blues, di cui abbiamo già parlato in questa rubrica, combinando la tradizione afroamericana con tradizioni un po' più radiofoniche bianche. Sì, questo gruppo si chiama RH Factor, RH Factor, cioè Roy Hargrove Factor, che ci fa capire che lui, insieme a Farid e Wright, è il band leader, si potrebbe dire, anche l'ispiratore di questo esercizio. Va detto che è veramente un genere un po' a cavallo quello che loro fanno. Sicuramente c'è del jazz, ma c'è anche del funk, c'è dell'hip hop, lo sentiremo, c'è del soul, tant'è che una delle definizioni che viene dato proprio di questo gruppo, e in particolare di questo disco che si chiama Hard Groove, è neo soul jazz. Quindi sì, anche qui si cavalcano delle situazioni piuttosto diverse, e sentiremo anche una voce interessantissima in questo disco. Tra le parentesi, canta e parla anche Erykah Badu, altra cantante che prima o poi dovremo far ascoltare. Assolutamente. E appunto si mischiano diverse situazioni, tra cui anche un po' di rap. In questo pezzo sentiremo un po' di tutto questo, diciamo. Partiamo con The RH Factor Poetry. Can you picture how a melody can start into existence? Rhythm section hits it and upholds it with persistence. Picture in the outline and you start to see the colors. Filling in with intricate splashes by all the brothers. Michelle is on the joint, you be missing the gay or cello. No wonder why the hump inside the joint is feeling ghetto. A medal or award should be given to these heroes for their efforts of revealing and bringing forth the feeling. I'm reeling, poetic, I say, a great proportion. I hope my little nuance is correct for this distortion. But I say why I say, and who is to say? 'Cause Roy makes the tune what it is today. Rhythmically, we in this lake of jeans. Know what I mean? It's only right that me and Mr. Wright, we hail from Queens. The overtone of funk is being driven by the students. The benevolence of Roy issued me the jurisprudence. To speak or rhyme, put it in a hipper term. I'm just a humble little germ, just a hipper version. Poetic, I mean truly indeed how every seed gets sprinkles with the essence of life to form our breed. Think about it, sweetie, why we give this to the needy. The musical expression is important for progression. Never stop learning lessons, and neither should y'all. Before we all stand, must acknowledge the fall. Before we get the bounce, we got to reach for the ball. Before we ghetto show, we had to get to a crawl. Check it out now, and don't you dare. Bobby Timmons did a joint called That Dear. Check it out now. Beh, check it out now, grazie Danny. Siamo molto, molto hip hop, molto, molto rapper, in una veste sconosciuta. Volavano qua dei cinque, dei dischi, delle cose. Beh, il rap o l'hip hop ha degli aspetti naturalmente di poesia urbana, senz'altro. Certo, è un modo di raccontare con la voce che in realtà esiste da molto tempo nella musica afroamericana. C'è una tradizione di cantante cantastorie che c'è anche nella tradizione europea. Partiamo anche dal blues in questo, però appunto che dà un po' un'idea di come la musica nera afroamericana e tutti i suoi derivati si sa in fondo rinnovare con i tempi, in questo caso con delle ritmiche, no? Molto, molto moderne, molto, certo, contemporanee. E un esempio interessante della capacità della musica afroamericana di rinnovarsi ma al tempo stesso di essere attaccata alle proprie radici è il prossimo musicista, anche lui un trombettista, forse il più famoso jazzista degli ultimi 20 anni, possiamo forse definirlo, ed è Wynton Marsalis, grande trombettista. Sì, è un grande trombettista, un grande animatore, un grande pedagogo, veramente una persona che nei 48 anni, e lo so bene quest'età perché è la stessa che ho io, che ha vissuto, ha fatto un'enormità di cose, sì, beh, insomma, è 61, giusta, dai. Un'annata dai, importante, dai. Ma Wynton Marsalis veramente ha creato un mondo interessantissimo che si centra su New York, il Lincoln Center, e soprattutto, come abbiamo detto prima quando parlavamo di Roy Hargrove, è una persona anche molto generosa che si dà da fare per scoprire nuovi talenti, per appoggiarli, sì, per sostenerli, e molti musicisti gli devono parecchio. Sicuramente, infatti bisogna dire anche dei critici Marsalis per il proprio atteggiamento, quantomeno nelle registrazioni e nelle performance che cura lui, molto, come dire, filologicamente corretto, ma in realtà bisogna dargli anche il merito di essere stato capace di sostenere artisti come Hargrove invece molto più capaci di sperimentare, lasciandogli lo spazio, certo, di fare cose come abbiamo visto anche Contaminazioni Hip Hop, cioè cosa che Wynton Marsalis non farebbe mai, questo non c'è. Sì, questo pezzo che faremo ascoltare, questo disco che faremo ascoltare, che è recentissimo perché è appena uscito nel 2009 e si intitola He and She, è un progetto estremamente interessante, è proprio un progetto in cui la poesia ha un ruolo molto importante, perché sostanzialmente sono delle poesie, è una poesia completa che è stata scritta da Marsalis sul rapporto fra uomo e donna durante il passare del tempo nella vita, che viene frammentata in tanti pezzi, quindi viene commentata poi musicalmente subito dopo ogni breve frase che sentiremo, adesso ne sentiremo solo un pezzo, e poi alla fine del disco, questo è interessante, viene recitata da lui, perché la sua voce è tutta la poesia, che ha appunto anche questi aspetti, diciamo, sociologici della famiglia e della vita in due. Wynton Marsalis, Poem 3 and Sassy. You are northern lights, searing midnight skies with sassy splashes of unruly satin. I see only you. Siamo immersi in un jazz classico di estrema sofisticazione. Bellissimo, qua Mary Dee e Fiordaliso ballavano scatenate, ci sono stati momenti anche un po' conturbanti. Ok, come spesso facciamo, usciamo dalla ricostruzione puramente jazz con invece un artista che è sicuramente jazz nell'animo per la capacità di combinare e sperimentare, ma che non possiamo definire jazz come genere musicale, è un cantautore, si chiama Sufjan Stevens, statunitense, un grande studioso della scrittura, uno che, per dirvi, ha un master in scrittura creativa alla New School di New York, che è una scuola di tutto rispetto, e che fa delle operazioni di scrittura nei testi molto interessanti. Il pezzo che abbiamo scelto per farvi sentire, oltre ad avere una splendida melodia, ha un testo molto interessante, che in realtà è divertente ricostruire come mal interpretato. Se io vi leggo il testo brevemente, dice: hai dato il tuo corpo a coloro che sono soli, hanno preso i tuoi vestiti, hai abbandonato la possibilità di una moglie, di una famiglia, hai donato i tuoi obiettivi, sei salito su un albero per stare solo con me, sei salito sull'albero, non conoscerò mai l'uomo che mi ha amato. E molti hanno pensato, e lo trovate anche in qualche blog un po' ignorante di discussione su internet, che questo fosse un testo dedicato a un amore omosessuale. In realtà è un testo dedicato all'amore per Cristo, perché Sufjan Stevens è un musicista cristiano. Sì, infatti in molte sue così canzoni e testi ci sono ispirazioni sicuramente bibliche, questo è interessante. L'altra cosa interessante sul piano musicale credo che sia il fatto che viene considerato un po' un minimalista, no, nella musica che fa, e tanto più che viene comparato a uno dei grandi nomi, Steve Reich, dei minimalisti. Quindi è sicuramente un mix interessante fra questi contenuti e una musica del tutto particolare. Adesso ce l'ascoltiamo dopo aver così introdotto e incuriosito, spero, i nostri ascoltatori. Sufjan Stevens. Beh, molto molto, è molto silenzioso, dai. Romantico, meno male che gli abbiamo detto il testo, però prima o poi ve lo faremo ascoltare veramente. Ve lo faremo ascoltare. Non è così la musica, veramente questa è un po' troppo minimalista, potremmo dire. Sì, troppo essenziale. Troppo Reich, come 30 Seconds of Silence, c'è un pezzo di Philip Glass. Comunque, va bene, noi adesso vi lasciamo sulla nostra sigla, direi, con anch'essa che è una forma di poesia, e vi diamo appuntamento al nostro prossima così escursione musicale, sperando sempre di non solo incuriosirvi ma anche di presentarvi degli artisti così nuovi, diversi, non troppo conosciuti, o se conosciuti in sotto forme meno note al pubblico normale. Questo è il nostro compito e speriamo di essere riusciti anche stasera. Buona serata. Ed eccoci qua, aspettando Fiordaliso. Aspettando, eh sì, perché ultimamente qui in radio ci sono un po' di rivoluzioni, di passaggi e di mutamenti che investono soprattutto i microfoni. Ed eccola qui, sempre più Fiordaliso. Vicino. Eccola qui, che parla ecco. Con lì, Brangolo. Lì, Brangolo. Grazie, Maridì, grazie. Si oltre chi? Allora, come cuffia. Ecco. Allora, oralità e poesia. La prima volta che l'ho sentito, un po' ero priva di idee, diciamo. Però poi comunque ci ho pensato che tanto tempo fa, come diceva anche il nostro ospite in radio, tutte le storie si raccontavano a viva voce. Ed erano trasmesse da padre in figlio ed arricchiti con nuovi elementi durante questo passaggio. E infatti molti lo facevano anche in forma di poesia, anche perché così era più facile memorizzare questi testi e ci facevano anche della musica. Era il caso di racconti come anche di Tristan e Isolde, di cui abbiamo ovviamente oramai una versione scritta, che però non ho letto di persona, quindi e poi è molto difficile immaginare, anche se Mimmo ci abbia provato prima di farci rivivere questa atmosfera, fondamentalmente è molto difficile avere un'esperienza personale di questa tradizione viva di oralità e poesia. Quindi sono stata costretta di avventurarmi nel mondo degli aneddoti, storie che sono inizialmente solo orali, raccontati in società, sui famosi del tempo, quindi anche sui poeti e scrittori, e che erano comunque secondo me un po' meglio dei nostri giornali scandalistici di oggi. Questo assolutamente, guarda, almeno erano colti. Chissà, c'erano anche dei grandi scandali, per esempio. Ma se ben conditi, sai, gli scandali. Qual era l'autore francese, il poeta francese che fu sparato dal suo amante a Bruxelles? Dal suo amante? Che rinunciò alla scrittura all'età di 19 anni, che diventò commerciante nell'Africa del Nord. Sempre a 19 anni? No, dopo. Ma prima di spararsi? O di essere sparato? Dopo essere stato sparato. Eppure molto famoso, si tratta di Arthur Rimbaud, poeta simbolista francese. Il suo amante nonché essendo... Nonché maledetto. Amante, chi era l'amante? Verlaine. Paul Verlaine. Infatti c'era anche un film con Leonardo DiCaprio. Sì. Che mi ricordo vagamente. Sai, scusa, restano soprattutto questi dettagli, i pettegolezzi. Pettegolezzi, ma non si tratta necessariamente di tragedie e scandalo. Siamo abituati a pensare, per esempio, a Tolstoi come ad una persona serissima, in base ai suoi romanzi, di una portata grande e con tantissime verità umane, che io apprezzo tanto. Invece immaginiamolo mentre impara ad andare a bicicletta a 67 anni. Cioè, fantastico. Assolutamente. E infatti si dice anche che abbia rotto i legami con la sua famiglia all'età di 82 anni. Un po' di adolescenza tardiva, magari. Come poi... Benjamin Button, più o meno, no? Che... Oh, questa è un'altra storia. Sì. A Sir Arthur Conan Doyle, l'inventore del famoso detective Sherlock Holmes, gli piacevano tantissimo questi scherzetti. Infatti una volta la tradizione orale dice che una volta mandò un telegramma a 12 dei suoi amici, a tutti con lo stesso contenuto: scappa immediatamente, il segreto è stato svelato. Entro 24 ore tutti lasciarono il paese. Tutti? Tutti. Che potenza, però, se ci pensi. Ma che segreti! Tutti amici del servizio segreto. Chissà. Tra un intreccio e l'altro. Esatto. E poi, ovviamente, non potevo non menzionare Oscar Wilde. Una volta un suo ammiratore americano fermò Oscar Wilde dicendogli che Columbus era un uomo fantastico. Ma perché? Chiese Oscar Wilde. Ha scoperto l'America, spiegò l'americano. Ma no, era stato scoperto tante volte prima, ma hanno insabbiato lo scandalo. Nessuno aveva portato a galla tutti quanti quelli che erano poi i tesori. Infatti, Stefano, forse volevi aggiungere qualcosa? No, solo che Oscar Wilde è ricchissimo di queste citazioni, certe volte paradossali, certe volte puramente umoristiche. Veramente doveva avere una particolare predilezione e facilità immediata a realizzare questo tipo di giochi di parole, che però funzionano sempre e non sono affatto invecchiate. No, infatti c'è un senso dell'ironia, comunque dell'umorismo eccezionali. Infatti, bellissimo. Aggiungerei per essere, vabbè, però non lo aggiungo, per essere un uomo. No, dai. Passiamo ad una storiella. Pettegoliamo o non pettegoliamo? Passiamo su una storiella su Chopin, che è un grande poeta del pianoforte. Un ricco calzolaio invitò a pranzo Chopin e, dopo aver mangiato, pregò il maestro di mettersi al pianoforte. Chopin voleva schermirsi, ma l'altro insistette. Tanto per farmi vedere, soggiunse, come si fa? E Chopin dovette suonare, ma alcuni giorni dopo fu lui che invitò a pranzo il calzolaio e, dopo mangiato, fece portare in mezzo alla stanza un deschetto con i suoi attrezzi e pregò l'invitato di fargli una scarpa. Grandi stupore di questo, ma Chopin fu irremovibile. O siate buono, tanto per farmi vedere come si fa. Beh, e chissà se sono vere o no queste storie, però sono arrivati fino a noi attraverso tanti racconti da padre in figlio, diciamo. Assolutamente. E comunque non è che appartengono soltanto al mondo del passato. Magari sono anche più riprese in scrittura oggi, con tutti i giornali che puntano sui scrittori e sui poeti magari famosi o diventati famosissimi. Per esempio J.K. o Joanna Rowling, che è l'autrice dei libri Harry Potter, offrì nel 1996 il suo Harry Potter e la pietra filosofale al Bloomsbury Books, che ovviamente, come sappiamo, venne accettato, e l'editore le dette però che Joe, non farai mai soldi con libri per bambini, è meglio se tieni il tuo lavoro. E quelle furono le ultime parole famose, vedi, altrimenti. Ecco, finirei con un aneddoto legato a Umberto Eco. Immediatamente dopo l'apparizione del nome della rosa, Eco ebbe un'intervista con un giornalista sul suo libro. Dopo un po' di chiacchiere introduttive, Eco guardò il suo orologio, poi chiese: posso cominciare facendole una domanda io? Ha avuto tempo di leggere il libro? È abbastanza lungo, sa. Il giornalista arrossì e gli disse di averlo letto alcune parti addirittura più volte. Due volte. Eco sospirò e disse: allora abbiamo un problema. Dobbiamo parlare del libro che ha letto la prima volta, o quello della seconda volta, o del libro che ho scritto io? Ebbene, vedi, Eco. Si conferma al pari di Oscar Wilde, insomma, estremamente straordinario. Fiordaliso, veramente grazie, è davvero geniale questa tua interpretazione dell'oralità. In realtà è proprio questo poi il senso stesso della parola. Questa sera ci siamo interrogati magari in maniera diversa proprio sul ruolo e sulla funzionalità di questa parola, che oggi più che mai sembra essere a volte rapita, quasi mai detta, insomma, su questa comunicazione sempre più veloce, insomma è una i-comunicazione, una comunicazione che è soprattutto elettronica, che magari non lascia più come una volta il tempo alla riflessione, alla meditazione. Speriamo di avervi un po' interessato, incuriosito. Ringraziamo nuovamente Mimmo per aver illustrato poi più nel dettaglio quelli che sono i vari passaggi legati all'oralità. Prima di terminare con la nostra agenda culturale, vedo già Dani M in regia pronto per alcuni suggerimenti musicali. Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. Il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. Le rose e i violini, questa sera raccontali un'altra. Violini e rose li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole, parole. Sono immersi da parole. A proposito di parole, volevo ricordare qualche concerto, già che quando parliamo di musica parliamo di parole in musica, di cantanti e cantatori straordinari. Partirei con Lionel Richie il 27 aprile allo Sport Palace di Anversa, da Paolo Conte che sarà sempre ad Anversa il 28 aprile, questa volta però alla Salle Reine Elisabeth, e il 29 aprile invece al Beaux-Arts a Bruxelles. A quanto pare, per quanto riguarda la data di Bruxelles, ci sono ancora posti disponibili, quindi affrettatevi. Per quanti volessero saperne di più, visitate il sito del Beaux-Arts. E ancora Tina Turner, grandissima star, grandissimo personaggio musicale degli anni 90 e di questo primo decennio del 2000, il 30 aprile sempre ancora allo Sport Palace di Anversa. Ugualmente Axel Red invece il 2 maggio, e poi ricordiamo nuovamente il concerto di Laura Pausini, World Tour 2009, il 25 maggio al Forêt National a Bruxelles, e Eros Ramazzotti che avrà due serate a Bruxelles, però già siamo in autunno, quindi 30 e 31 ottobre 2009. Altri ancora, gli Eagles il 18 giugno allo Sport Palace di Anversa, e tantissimi Madonna, altri, la stessa Madonna infatti l'11 luglio al Parc du Festival di Wercher, che non so dove sia, però insomma cercheremo di saperne di più, così come ad ottobre Elton John allo Sport Palace di Anversa. Quindi insomma questi ci sembrano essere omaggi importanti per quanti riescono ad esprimere quelle che sono le sensibilità musicali dei tempi di oggi, opinabili o non. Questo è quello che offre il mercato, quindi insomma direi che qui il mercato offre tantissimo, direi che questi nomi che hai detto sono delle colonne del pop o del rock per tutti i gusti, e tutti in Belgio, quasi tutti ad Anversa, quindi insomma qualcosina a Bruxelles, quindi c'è ancora spazio per ascoltare dell'ottima musica. Prima di concludere volevo sottolineare due begli eventi. Il primo è il San Pellegrino Fashion Food 2009. Immaginate 10 cucine equipaggiate, dove degli chef rinomati cucineranno davanti a voi quelle che sono le migliori specialità ispirate ispirate da una tematica specifica. Tutti gli ospiti potranno partecipare alla preparazione dei pasti e fare la loro scelta, mangiando a volontà. Il San Pellegrino Fashion Food propone una straordinaria arte culinaria che si apre al mondo, ovviamente cercando di esprimere quelle che sono le eccellenze di oggigiorno, quindi di esprimere una cucina quanto più possibile esigente, creativa, ma anche ovviamente vicina ed accessibile. Questo evento è ormai già una delle tappe privilegiate dell'arte di vivere della gastronomia quotidiana, e quest'anno sarà organizzata al cinquantenario, trasformato per l'occasione in un gigantesco ristorante per accogliere quelli che a quanto pare sono circa un migliaio di invitati. A quanto pare questi sono i dati dello scorso anno. Tutto ciò al Parco del Cinquantenario. In prevendita il biglietto è di 38 euro, all'entrata di 45 euro. Apertura dalle 19 alle 21. E poi ovviamente alle 21 scoperta gastronomica attraverso i 10 ristoranti. Tutto questo avverrà il 24 e il 25 aprile. Per quanti volessero saperne di più, fashionfood.be. Poi, in tema di parole, come non possono mancare quindi le lingue, quest'anno per la Festa delle Lingue 2009 vi sarà organizzato un festival di 30 atelier in 20 lingue e l'evento sarà ospitato dal Parlamento federale belga. C'è soltanto una condizione da dover rispettare, ovviamente user le langue, quindi parlare le lingue, cercare di esprimersi. Tanti sono i temi della serata, ci sarà anche la lingua dei segni, l'espressione teatrale, il karaoke, la musica aborigena, il bingo, il circo e la magia. Insomma, c'è di tutto di più per piccoli e grandi. Per saperne di più, animationlang.be. Tutto ciò al Parlamento federale a Rue de la Loi a 1000 Bruxelles. L'ingresso è gratuito dalle 13 alle 18 il 25 aprile. Ed infine, per concludere questa nostra tornata sull'agenda culturale, io non sapevo, ma a quanto pare il Museo dei Trasporti Urbani di Bruxelles ridarà nuovamente vita ad un tram degli anni 30, un tram degli anni 35, per una passeggiata in quelli che sono i luoghi più simbolici di Bruxelles. Partendo dal deposito dei tram, che forse già conoscerete, al Voloé, raggiungerà la stazione di Schaerbeek, passando per gli stagni di XL, l'Avenue Louise e l'asse Royal, per terminare a Quai des Usines. Il ritorno, ovviamente, non può mancare tutto quello che è il Domaine Royal, quindi la proprietà reale, attraverserà il quartiere marittimo, passerà per la Gare di Midi, infine raggiungerà nuovamente Place Flagey, passando per la Barriere de Saint-Gilles, la Trinité, e terminerà infine al Voloé. L'evento avrà luogo dal 5 aprile al 27 settembre, quindi c'è tempo. La tariffa è di 12 euro per i più piccoli, in età compresa dai 6 ai 12 anni, 6 euro invece per i minori di 6 anni è gratuito. Per quanti volessero saperne di più, sono estremamente in ritardo, trammuseumbruxelles.be. Io ringrazio tutti, Paolo, Stefano, Fiordaliso, Dani M in regia, ringrazio tutti i nostri ascoltatori, Mimmo Grasso per la partecipazione, Bianca Madeccia per averci fatto conoscere Mimmo, saluto Giorgio, spero di averlo nuovamente qui martedì prossimo, e ovviamente ringrazio voi ascoltatori ed ascoltatrici, senza i quali Brussellando non sarebbe